Su questo raffronto padre Puglisi impostò anche per i suoi parrocchiani una serie di incontri dal titolo significativo Itinerario per una catechesi sul Padre Nostro a confronto con la cultura e la mentalità mafiose. E se a qualcuno può sembrare esagerata o esasperata la formulazione di una simile antipreghiera e relativa catechesi, gli gioverà leggere, nella sentenza emessa dalla Corte di Assise di Palermo, che a Brancaccio il boss in carica era nominato Madre Natura. Madre Natura ha mandato a dire di fare questo omicidio. E il responsabile del gruppo di fuoco era noto come Ussignuri, il Signore, cioè Dio, perché, dicevano i mafiosi nel loro incerto italiano, aveva il potere di salvare le persone e di poterle ammazzare. Bastava una sua parola per morire o per campare una persona. Ed era anche universalmente noto che il vecchio boss della zona, in carcere da tempo, era soprannominato il Papa. Così fu creato il centro Padre Nostro, in modo che la preghiera insegnata da Gesù potesse mostrare tutta la sua bellezza e la sua efficacia. Vi si tenevano lezioni di recupero scolastico per ragazzi e per adulti, c'era una bibliotechina per adolescenti, un piccolo deposito di medicinali, di giocattoli, di vestiti, vi si poteva avere un pasto caldo o trovare sostegno infermieristico e anche consulenza legale, si organizzavano visite domiciliari, visite ai ragazzi rinchiusi nel carcere minorile e alle loro famiglie, e non mancava una piccola macchia di verde per respirare e un giardinetto dove si poteva passeggiare. Padre Pino lo usava per i colloqui personali con i ragazzi. Ma la più profonda azione educativa del centro si realizzava per il solo fatto della sua esistenza e per il nome che aveva. Fin dall'inizio, Padre Pino s'era immaginato i bambini del quartiere che si dicevano l'un l'altro: andiamo al Padre Nostro, io vado al Padre Nostro. E la strada risuonava di quella notizia, che era già in se stessa una professione di fede. E difatti, uno dei ritornelli dei mafiosi durante il processo per motivare l'omicidio sarà: lui si prendeva i bambini per non farli cadere, diciamo, nelle mani della mafia. Fu dopo la marcia per la vita organizzata per ricordare la strage di Capaci che iniziarono intimidazioni sistematiche. Il giorno dopo la manifestazione fu bruciato il furgone della ditta che eseguiva i lavori di restauro della chiesa parrocchiale. Poi danneggiarono la povera macchina del prete. Poi furono incendiate contemporaneamente le porte di casa dei tre membri più attivi del comitato intercondominiale. Poi vennero minacciati dei ragazzi, uno dei quali fu pestato a sangue e inviato con l'ambasceria: digli al prete che ci deve lasciare lavorare in pace. Il giornale di Sicilia ne diede notizia. Attentati in serie contro la parrocchia antimafia. Ma padre Pino scosse la testa commentando: il mio lavoro è sempre stato per, non anti. E dopo l'incendio delle porte di casa dei suoi amici aveva sì stigmatizzato il fatto in predica, ma aveva anche inviato un accorato appello ai mandanti: sono qui, sono disposto a parlare. Voi avete vissuto da piccoli in questa chiesa e quindi avete, anche voi siete figli di questa chiesa. A questo punto vi aspetto e ne parliamo. E ancora, mi rivolgo anche ai protagonisti delle intimidazioni che ci hanno bersagliato. Parliamone, spieghiamoci. Vorrei conoscervi e conoscere i motivi che vi spingono ad ostacolare chi cerca di educare i vostri figli al rispetto reciproco, ai valori della cultura e della convivenza civile. Preferirono ucciderlo, tentando di far passare l'omicidio per il delitto di un tossicodipendente. Ed era così indifeso che non dovettero affaticarsi nell'esecuzione. Era il giorno del suo compleanno. Al mattino aveva celebrato due matrimoni, poi s'era recato in comune per l'ennesimo inutile tentativo di ottenere quella sospirata scuola media, Al pomeriggio s'era intrattenuto con alcuni amici per un momento di festa e per ricevere un biglietto di auguri, poi aveva preparato alcuni genitori al battesimo dei loro bambini, poi s'era diretto verso casa per un ultimo incontro con due sposi che desideravano parlargli. Il gruppetto che doveva eliminarlo era nei paraggi, ma solo per un primo sopralluogo, per studiare la situazione. Ma la situazione era così semplice, la vittima così esposta, che ritennero inutile attendere. Mentre padre Pino infilava la chiave nel portoncino di casa, una mano lo prevenne e si posò sul suo borsello. «Padre, questa è una rapina», disse il complice. Padre Pino si voltò appena. «Me l'aspettavo», disse, con un indimenticabile sorriso buono, mentre l'esecutore gli sparava alla nuca. Si aspettava di dover dare la vita proprio in quell'istante? Non lo sappiamo, perché non vide il suo assassino, o forse ne percepì solo confusamente la presenza minacciosa alle spalle. Ma certo aspettava il compimento della Via Crucis sulla quale s'era liberamente incamminato. Sapeva che ogni violenza che lo raggiungeva era una sacra stazione del suo cammino verso il Calvario. In quegli ultimi anni, pur essendo parroco a Brancaccio e padre spirituale del seminario, non aveva voluto abbandonare un incarico a cui teneva molto, quello di cappellano in una casa rifugio per ragazze madri. Proprio a loro, il giorno prima, aveva fatto una stranissima predica sulla passione di Gesù. Aveva detto: «Quando noi abbiamo paura o proviamo una sensazione intensa di calore, scattano le contrazioni sotto la pelle. Lì ci sono come delle borsette piene che si svuotano e fanno uscire il sudore. Ma quando la contrazione è più forte, perché la paura è diventata angoscia, tensione insopportabile, si rompono i capillari. Ecco perché si dice che Cristo sudò sangue. Sudò sangue per la paura umana del dolore. E sulla croce implorò il Padre di evitargli l'amaro calice prima di unirsi al suo volere. Da questo abbiamo conosciuto l'amore di Dio. Egli ha dato la vita per noi e anche noi dobbiamo dare la vita per i fratelli». Ora sappiamo che cosa aspettava padre Pino Puglisi. Aspettava il momento in cui Cristo crocifisso l'avrebbe abbracciato e stretto a sé.